Natra Radio Roma. Natra Radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Natra Radio. Roma. Salve. Salve a tutti, chi vi parla dai microfoni di Natra Radio Roma è DJ Gasperino, il quale ha accettato la proposta fatta da DJ Brontolo nel mese di novembre 2009, quella di incominciare una nuova avventura proprio attraverso questa radio. Ringrazio tutti quanti per aver scaricato questo podcast. Questa musica è tutta quanta scaricata dal sito di Yamendo, che è un sito che trasmette musica libera e gratis, che può essere visitato da ognuno di voi, cosicché potete scaricare anche voi la vostra musica preferita, perché sono gli stessi artisti che ve lo permettono di ascoltarla, di scaricarla e, se vi piace, anche di acquistarla. Ma adesso ho già parlato troppo e vorrei incominciare con due brani abbastanza tosti che a me piacciono molto. Ho deciso di iniziare con Watch Me di Audra Art e poi I Will Cause Your Pain degli Ipospadia. E se oggi, dopo i vizi di ieri, sei ancora in coma, non te preoccupa, a svegliarte ce pensa Natra Radio Roma. Maybe I can, and maybe I can't, maybe I do or don't need a man. What if I will? What if I won't? Open your eyes. Never had I strayed away. Always have told you the truth. Now you wanna fade away. Why? erano gli Ipospadia con I Will Cause Your Pain, tratto dall'album Crapulas. Mentre prima avevamo ascoltato dall'album Superficial Superstar Watch Me di Audra Hart. Spero che la musica che sto trasmettendo sia di vostro gradimento e abbandono momentaneamente questo genere che abbiamo ascoltato per affrontare un genere più dance, ma per parlarvi di un gruppo, le Millionaire Blonde, che sono un gruppo italiano. Dopo aver prodotto il brano Se ne va, hanno deciso di produrre anche un video che è impazzato un po' per tutte le reti, a dimostrazione che esiste anche un altro modo di far musica, a dimostrazione che questa radio ha ragion di essere, a mio modo di vedere. Ma prima vi trasmetterò gli Ice Sun con Call Boy, qui su Nartra Radio Roma. We'll be right back. Roma. La guerra genera la guerra e la vittoria la sconfitta. Credo che le poesie e gli scritti ci danno degli spunti di riflessione su fatti che ci accadono giornalmente accanto. Se all'inizio dello scorso secolo personaggi artistici come Trilussa erano in grado e avevano la capacità di raccogliere quello che accadeva e che sembrava ovvio e portarlo, traslarlo in rime, descrivendolo, ironizzandoci, noi oggi, in questo secolo, la stessa capacità critica, credo, che l'abbiamo un po' persa, ha proprio perso di efficacia. Ed è così che non siamo più in grado di ironizzare, raccontare, raccogliere quello che ci accade accanto. In questi giorni abbiamo tutti noi assistito a un evento che, secondo me, è alquanto bizzarro, da lasciare qualche domanda in sospesa. Voglio ritagliare un piccolo spazio per esprimermi e esprimere così alcuni miei concetti. Se voi avete qualcosa da dire su quello che ho, scrivetemi che lo leggerò e lo riporterò in questa trasmissione. Tornando al punto, per poi tornare definitivamente alla musica, prometto, a voi non sembra strano o non è suonato, per rimanere in argomento, un pochino strano che un personaggio che comanda in gran parte il mondo ed è stato premiato con il premio Nobel abbia pronunciato parole come missione di pace, mantenendo un impegno a ritirare le truppe, ma nello stesso contemporaneamente, nello stesso momento, ha inviato altri soldati? Ma Trilussa ci ha lasciato una poesia per raccontarci la guerra del 1915-18. Il titolo della poesia che vado per leggere è La ninna nanna della guerra e l'ho tratta dalla guerra e la pace. E fa così. Ninna nanna nanna ninna, er pupetto, bola zinna, dormi dormi cocco bello, se no chiamo farfarello, farfarelle e gugliermone, gugliermone e cecco pepe, che se regge con le zeppe d'un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, piglia sonno, che se dormi non vedrai tante fami e tante guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti della gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza, a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. Che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro di quattrini che prepara le risorse per gli ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti, non se fanno complimenti, torneranno più cordiali li rapporti personali. e riuniti fra di loro, senza l'ombra di un rimorso, ce faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Già bontà stai di ralima, l'umuovo d'ore posauta, al hajaro lì a calivetti, hapu lì al corria. Suena el fatal para fumar los mistos, largo el lento sueño de un pueblo bajo tierra. Freno y en la folleta, freno y en la folleta, son números rápidos, vida a tuya miseria. Questa era Pueblo dei Proud, un disco del 2004 fatto da questa formazione spagnola che utilizza degli strumenti a fiati tradizionali con una doppia voce composta da Isa e da Miguel. Poi c'è Dani alla chitarra, c'è Dabi al flauto e alla chitarra, Javi al basso, Paul alle percussioni e Giorgio alla batteria. Una formazione abbastanza energica e forte. Questo gruppo ci dà modo di entrare verso lo ska punk. Lo ska punk è l'unione di due generi musicali, degli immigranti giamaicani con la scena punk, quella più dura, in una Londra degli anni 80-90. Questo tipo di genere, che si presenta sempre più variopinto, ha subito delle modificazioni nel corso del tempo. Sicuramente un gruppo che presta attenzione, a cui noi dobbiamo prestare attenzione, sono i Talco. È una banda veneta che unisce alcuni elementi tipici del folk, come la chitarra acustica e la fisarmonica, dando un risultato di una musica molto energica e ma nello stesso tempo melodica. Ascolteremo anche nelle prossime volte questo gruppo. L'album che ho preso è Combat Circus del 2006, mette da parte un pochino lo ska punk e diventa anche un po' più folk, ma è un album molto molto bello a mio modo di vedere. Il brano che vi presento è Tortuga. Se sei stanco, mettiti comodo in poltrona e a gran volume ascolta Nartra Radio Roma. Dell'illusione, oltre le falde della disinformazione, lamenti stolti, vuoti impuniti, mani assordati dalla danza dei banditi, ai piedi di una memoria ingrata, sveglia le storie di una terra liberata, caduta in mare, nell'incoscienza, svenduta al banco di una bieca indifferenza. Servi del vento, miti traditi, spazzati al largo dalla danza dei banditi. Ve le spiegate sopra giorni abbandonati, salvati a bordo sopra un circo di pirati. Su antichi fastidi, macerie e falsi miti, tuona invisibile la danza dei banditi. Tuona invisibile la danza dei banditi. Tortuga dei Talco. E dallo ska punk passiamo al reggae, che ha origine come genere musicale proprio in Giamaica ed è un diretto discendente dello ska. Il reggae subisce delle influenze che lo portano completamente in un'altra strada dalla strada originaria, fino ad arrivare a un culto religioso rasta capeggiato proprio da Bob Marley. Il gruppo che ho scelto per noi da ascoltare sono i Ras Nabu and Players Union. L'album è Dub Spirits Live e la traccia che ho scelto è Game Is Over. Buon ascolto su Nartra Radio Roma. Game's Over, suonata dai Ras Nabu and Players Union. Lasciamo così alle spalle il reggae per entrare verso un genere musicale a me molto caro, di origine statunitense, nato nei primi anni del XX secolo, lì nel sud degli Stati Uniti, dove venivano a confluire le tradizioni musicali come quelle del continente africano ed europeo. Le caratteristiche peculiari del jazz sono l'improvvisazione, la poliritmia, l'utilizzo del sincope, di note swing e blues. Senza dubbio l'improvvisazione dà quella caratteristica a questo genere musicale, la quale, partendo dalla semplice variazione sul tema iniziale, ha assunto via via sempre maggiore importanza, fino ad assumere la completa preeminenza sul tema. Nel corso degli anni questo genere musicale ha subito delle variazioni, come tutti i generi musicali, e parliamo di 100 anni di storia. Le formazioni jazzistiche moderne sono costituite tipicamente da una banda con degli elementi quale un quartetto, batteria, basso o contrabbasso, il pianoforte, generalmente un sassofono e una tromba. La musica jazz si può considerare come un nuovo varco verso altri mondi musicali. Viene considerata come musica colta, appunto per il presupposto che è risultante della conoscenza della musica classica e delle varie etnie musicali. I gruppi che ho scelto per noi questa sera sono sostanzialmente due. Il primo è una formazione italiana che si chiama gli Oprachina, che dalla loro opera The Jazz Farm ci farà ascoltare Fat Fast. Il secondo gruppo sono i Suerte, che dall'opera Pasquè ci ascolteremo Sieste Ocho. I Suerte ci propongono un genere etno jazz molto allegro e variegato. Ma adesso gli Oprachina con Fat Fast. We'll be right back.

Qui è sempre DJ Gasperino dai microfoni Denartra Radio Roma. Abbiamo circa passato insieme un'ora, hai visto come corre il tempo? e vorrei ringraziarvi intanto per aver scaricato questo podcast, ringraziarvi per avermi sopportato nei miei sproloqui più o meno vari, e vi pregherei tutti voi di scrivermi affinché possa migliorarmi, e dove potete mettere suggerimenti, idee e anche qualcosa che io possa leggere in trasmissione. Ma prima di andare avanti e di trasmettere l'ultimo brano di un artista secondo me eccezionale, di una capacità sublime che mi dà forti emozioni, vorrei ripassare con voi la scaletta di quello che abbiamo ascoltato oggi. Il primo artista era Auda Art con Watch Me, poi Lipo Spadia con I Will Cause Your Pain, I Sun con Callboy, Millionaire Blonde con il loro Se Ne Va, Prau con Pueblo, Taco con Tortuga, Ras Nabu and the Players Union con Game Is Over, Opachina con The Jets Farm, traccia Fat Fast, Suerte con Sieste Ocho. E adesso passiamo i saluti. Saluto tutti voi, saluto tutti quelli che hanno permesso questa trasmissione, saluto chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi fino in fondo e spero che in fin dei conti vi sia piaciuto. Dicevo, l'ultima artista è una donna eccezionale. Pensate, è nata nel 1981, è una cantatrice e pianista canadese. Il suo nome è Alison Louise Crew e quello che ci andiamo ad ascoltare è Lisa's Song. Buone cose a tutti da DJ Gasperino! Found you safe and held you in my arms. I want anyone else in the world to tell me that they did too, and took you home across the field and to your door and said, hey baby, it's cool. There's no reason to be scared anymore. Took you home and held you in, held you in, held you in. Just stay at to play. Circumstance beyond control, I feel so helpless. My mind is racing and breaking me into a million pieces because I can't take you home across the river and to your door. Take you home and cut through the dark. Take you home, but I'm so scared that home isn't here anymore. fai finta di essere buono, il mondo ti prende molto seriamente. Se fai finta di essere malvagio, il mondo non ci crede. È sbalorditiva la stupidità dell'ottimismo. Oscar Wilde. DJ Gasperino. Na-na-na-na-na-na-na-tra radio. Ro-ro-ro-ma. Ro-ro-ro-ma. Un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Ro-ro-ro-ma.